Speciale Europei 2008. Buongiorno da Dario Ricci. A Euro 2008 è il giorno dell'esordio dei campioni del mondo. L'Italia di Donadoni affronta alle 20.45 a Berna l'Olanda di Van Basten. Recuperato Panucci, probabile che il CT si affidi a Materazzi come sostituto dell'infortunato Cannavaro. Intanto Donadoni sembra più preoccupato dalle condizioni del campo di gioco e dal ritrovare sulla panchina avversaria l'ex compagno di maglia rossonera. In merito al campo, è vero, è un bel terreno, però è scivoloso. Di aver avuto Sacchi sul nostro cammino come allenatore e averlo vissuto insieme, credo che abbia dato a entrambi delle esperienze importanti. Fascia di capitano a Gigi Buffon, carico al punto giusto per la sfida coi tulipani. No, ognuno vive insomma la vigilia di queste gare un po' come vuole, io sono sempre abbastanza tranquillo, per cui l'affronto con molta serenità, molta fiducia e la consapevolezza che siamo la squadra da battere, poi sta a noi dimostrarlo ancora una volta. Tra gli arancioni, assente l'infortunato Robben, forse sostituito dall'esterno del PSV Eindhoven a Fellai, è il bomber Van Nistelrooy il pericolo numero uno, come spiega Andrea Barzagli. Giocheremo contro anche Van Nistelrooy, ritengo uno degli attaccanti più forti al mondo, quindi dovremmo stare concentrati tutta la partita perché alla prima occasione insomma lui ti può castigare. Inizio a sentire un po' di sofferenza anche perché insomma ci stiamo avvicinando, quindi anche responsabilità, ma penso sia giusto così. Il milanista Ambrosini fa il punto sulle condizioni del gruppo azzurro. Insomma, un'avventura che comincia, speriamo duri il più possibile. Fisicamente e mentalmente siamo pronti, poi il campo ci dirà tutto. Ma sappiamo di incontrare una squadra ben organizzata con delle grossissime individualità soprattutto davanti, quindi la concentrazione è massima. È una squadra importante da battere per iniziare bene un europeo che tutti vogliamo che sia ricco di soddisfazioni. Alle 18 a Zurigo l'altra attesa partita del gruppo C tra la Romania e la Francia, vicecampione del mondo. Il CT transalpino Domenech deciderà solo all'ultimo se utilizzare Vieira, che sta recuperando da un infortunio muscolare. Ieri intanto prime gare del gruppo B. A Vienna un rigore di Modric dopo 4 minuti ha dato la vittoria alla Croazia contro l'Austria padrona di casa. Due gol di Podolski, uno per tempo, hanno permesso invece alla Germania di regolare la Polonia. Intanto, in vista dell'esordio della sua Svezia domani contro la Grecia, Ibrahimovic si è detto preoccupato per le condizioni del suo ginocchio che lo fa tribolare da tempo. Non so se reggerò tutti i 90 minuti, ha dichiarato l'attaccante dell'Inter. Vi accompagneremo verso Italia-Olanda con collegamenti, servizi e interviste lungo l'intera giornata. Vi ricordo in particolare l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14 e lo speciale Europei dalle 22:30. Ancora un saluto da Dario Ricci.